Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E anche quest'oggi, 21 agosto, è arrivato il momento di Eclettica sulle frequenze di Rock FM. Sono arrivate le ore 19 e compare in voce Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20. Antefatto, Scozia 1823. Un uomo è stato arrestato per aver rubato una crosta di pane. La mollica non mi piace, spiega. Viene quindi identificato come il ladro che di recente ha terrorizzato varie rosticerie, rubando solo l'ultima fetta o culo del roast beef. Il colpevole, Solomon Entwistle, è trascinato in tribunale e un giudice molto severo lo condanna a 5-10 anni, salvo complicazioni, di lavori forzati. Entwistle viene rinchiuso in una segreta di cui, con un'azione di penologia illuminata, viene gettata via la chiave. Abbacchiato ma testardo, Entwistle incomincia un'ardua opera di scavo col cucchiaio per evadere dal carcere. Lavorando in defesso, si scava una galleria sotto le mura della fortezza, poi prosegue, cucchiaiata a cucchiaiata, da Glasgow verso sud. Fa una pausa ed emerge a Liverpool, ma decide di preferire il tunnel. Giunto a Londra, si imbarca clandestino su un veliero che salpa per il nuovo mondo, sognando di rifarsi una vita, questa volta migliore. Giunto a Boston, Entwistle incontra Margaret Figg, una graziosa maestrina del New England, il cui passatempo è impastare il pane e poi metterselo in testa. Ammaliato, Entwistle la sposa. I due mettono su una botteguccia, dove si barattano pelli e grasso di balena contro soprammobili e chincaglierie, in un ciclo sempre più crescente di insensata attività. Il negozio è un successone e nel 1850 Entwistle è ricco, istruito, rispettato e tradisce sua moglie con una femmina di opossum. Margaret Figg gli dà due figli, uno normale, l'altro sottosviluppato, ma è difficile vedere la differenza, a meno che non gli si metta in mano uno yo-yo. Quella che era all'inizio una botteguccia da barattiere diventa un gigantesco emporio e, quando muore a 85 anni, per essersi beccato il vaiolo e un tomahawk in testa, Entwistle muore felice. Questo era l'incipit di Un avverso destino, appunti per un romanzo di 800 pagine, il grande libro che tutti attendono, da Effetti collaterali di Woody Allen. I fear the hearts of men are failing on these shores. Been chasing tails and trapping shadows. The whisper lanes and hoods, the conjuring of smoke. We're setting fire to sleepy towns now. Drumming rise, my quarter coiled up and baying. The crackling of wildfires, the breathing figures into life. Now we have enemies amongst us. Through it all, I gave my hand, and through it all. For your heart, carry on. I draw the line, I hush the sounds. We'll never meet again. Old songs and folk tales dying. I lift my hands and fake a mirror for your flames. Set out in crescent ships, bowing to the shores. Fathoms of lost souls below us. I cup this fleet and blow its sails to the end. And this world comes apart in my hands. Through it all I gave my hand. And through it all these days. For your heart, carry on. I draw the line, I hush the sounds we'll never meet Quando siamo pronti in fila diamo tutti un bel colpo di clacson, avanti! Clacson Silvani, sirena Calvoni, clacson Colzi e Mughini, clacson Fantozzi, clacson Di Filini. Cape, placing it up again, 'cause she used to love it, so I'll bury my shame. She was 19 and we could do it all and it all go faster. Things could multiply at appalling rates. Then we'd lose our heads and we'd still go faster, even on our birthdays. Già ho avuto modo nelle settimane scorse di parlarvi sia di The Sleeping Ears, che ha aperto quest'oggi Eclettica con Setting Fire to Sleepy Towns, che di Throw Me the Statue, che ci siamo appena ascoltati con Lolita, pseudonimo dell'artista di Seattle di nome Scott Riderman. Invece ancora non vi ho assolutamente parlato del progetto che sta per arrivare, un progetto che risponde al nome di Travis Morrison, ex Dismemberment Plan, che però si fa accompagnare da un gruppo Hellfighters a cui dà dignità di copertina. Infatti il progetto si presenta come Travis Morrison Hellfighters, non quindi come le prove precedenti soliste di Morrison stesso, che erano solo a suo nome. Un disco uscito nel mese di agosto, quindi c'è anche chi pubblica nel mese di agosto, anzi proprio oggi, il 21 di agosto, per Bersak, questo è il nome dell'etichetta, album dal titolo All Ya All, dal quale il brano che ci ascoltiamo all'interno di Eclettica ha per titolo a sua volta As We Proceed. Yeah. Ambiente e osservazioni, 1976. Chi si trovi a percorrere Alton Avenue, verso est, incontra il magazzino dei fratelli Costello, l'officina Adelman, le pompe funebri Cones e poi la sala da biliardi Hybe. Il proprietario, John Hybe, è un uomo tarchiato dai capelli a cespuglio, che all'età di 9 anni cade da una scala e ha bisogno di 2 giorni di preavviso per smettere di sorridere. Svoltando verso nord dopo la Hybe e procedendo verso i quartieri alti, veramente oggi sono quelli bassi, poiché i veri quartieri alti si trovano dalla parte opposta, si arriva ad un piccolo giardino pubblico. Qui i cittadini passeggiano e chiacchierano e benché il luogo non sia teatro abituale di rapine o stupri, capita spesso di venire avvicinati da questuanti o da uomini che dicono di essere amici di Giulio Cesare. Ora la fresca brezza autunnale, nota qui come Sant'Anna, poiché arriva tutti gli anni puntuale e dà una bella spazzolata alla maggior parte della popolazione anziana, fa cadere le ultime foglie dell'estate e le ammassa in morti mucchi. Si è colpiti da un senso, quasi esistenziale, di inutilità e di noia, specie da quando hanno chiuso gli istituti massoterapici. C'è un preciso senso di metafisica alterità, che non si spiega se non dicendo che qui di solito è tutto diverso da quello che succede a Pittsburgh. La città è in certo qual senso una metafora. Ma di che? Non solo una metafora, ma anche una similitudine. È il dove si è il qui, è l'adesso, è anche il dopo. È ogni città di America e non è nessuna città. Ciò crea una grande confusione tra i postini. Qui si trovano i grandi magazzini in Twisto. Questo era ancora l'incipit di Un avverso destino, appunti per un romanzo di 800 pagine, il grande libro che tutti attendono, da Effetti collaterali di Woody Allen. Lots to do. He bought a fly zone. Bushels è il titolo del lungo brano che si è appena chiuso qua in Eclettica sulle frequenze di Rock FM, estratto da Tears of the Valedictorian, lo stesso album da cui abbiamo estratto più volte Idol Songs della band canadese di Victoria nel British Columbia di nome Frog Eyes, band che ha anche un piede all'interno dei ben più noti Destroyer. Ma vediamo se con continui passaggi in Eclettica contribuiamo ad aumentare anche la notorietà dei Frog Eyes. Sta per chiudersi questa prima parte, Giulio Caperdoni sta per salutarvi temporaneamente, ci saranno però ancora 30 minuti da passare assieme. I prossimissimi io direi di passarli con i Best Friends, che erano da un po' di tempo che non comparivano da queste parti. Io ho la canna, ho una cannotta, sì. E la stavo giusto appunto usando, anzi un'altra volta. Quando vedete la luce rossa sul tetto che gira, vuol dire che io sono in immersione e non mi disturbate, ma, ok? Chiedo scusa, sì, prego. Mi scusi tanto.